uccelli sciolgono il brusio, con qualche fischio qua e là, e c'è un'orchestra nel mio io che accorda gli strumenti in fa. La notte disperata e buia dovrà finire prima o poi, e si apre come un alleluia, crepuscolando su di noi il sole. Ritorna e allarga il sorriso del giorno, svegliandosi si fa la barba col rasoio dell'orizzonte intorno a sé. Poi apre un cielo giornalaio, bevendo il mare per caffè. Il sole che sale è un sogno bambino di scale sull'arcobaleno. Cavallo del vento un ciclone partì, come un sasso gigante finì su di me, e quel fuoco che ho spento cos'è? È un sole di quarzo che illumina un uomo diverso dagli altri e da sé. A mezzogiorno il sole va sui grattacieli europei e sui deserti dove Allah ascolta il canto degli ebrei. È il sole e intanto un ragazzo di strada vivendo si uccide. Perché piangi fratello sperduto in un bar, se il tuo cuore è un cervello che cuore non ha? Nel pianeta degli intelligenti robot la moneta per te. Racconta stelle e profezie, e poi tramonta e muore come noi. Le notti sono lunghe gallerie, ma il sole sorride. La vita ci unisce e divide, e il sole ci unisce, Dio.